Certamente devo dire che l'organizzazione di una giornata come questa ha dei limiti ben più gravi per noi, cioè c'è la coscienza, insomma, che non abbiamo fatto questo invito agli amici, e devo dirlo subito all'inizio, perché noi ci sentiamo esperti o ci sentiamo competenti. Casomai proprio il contrario, insomma. Ecco, l'abbiamo fatto proprio perché non ci sentiamo esperti, non ci sentiamo competenti, vorremmo capirci qualcosa di più. E questo mi premeva dirlo all'inizio. E crediamo proprio che gli amici convenuti possono aiutarci e tutti insieme possiamo aiutarci per cercare di andare avanti. L'idea di muoverci su questo terreno è abbastanza ovvia in una città come Trento, che ha un certo tipo di tradizione legata all'avvenimento con la maiuscola cittadina del Concilio di Trento, e si collega anche con la decisione che è stata presa dal nostro istituto qui di fondare un centro di studi in onore di Iedin, e particolarmente appunto dedicato a promuovere gli studi sul Concilio di Trento e sulla sua attuazione, in qualche modo, connessi con la vita sociale e religiosa dell'Italia post-tridentina. Ecco, questo l'avevamo deciso nel novembre del 79, e poi, a dire la verità, le cose si sono complicate. Da un lato con la morte stessa di Iedin, perché questo centro in qualche modo avrebbe dovuto trovare Iedin ancora in supporto, così per la sua partenza, insomma, diciamo, per il suo decollo. Ecco, e invece la morte di Iedin ci ha un po', da una parte ha avuto l'effetto anche di incitarci di più a fare qualcosa, insomma, in questo settore. Dall'altra parte ci ha certamente frenati, perché è venuto a mancare così, insomma, diciamo, una garanzia, quello che gli era della fondazione di questo istituto, insomma, ecco, non solo il presidente, ma anche in qualche modo la somma di equilibri e di, diciamo, saggezza umana che per noi rivestire. E quindi sono stati anche problemi. Abbiamo per questo dedicato la prima attività dell'istituto a un ripensamento sull'opera storiografica di Iedin, in un simposio che abbiamo fatto nel novembre scorso, e che sarà, è in corso di, i cui atti sono in pubblicazione, in corso di stampa, e quindi il nostro primo muoverci è stato soprattutto di una riflessione, diciamo così, interna in seguito a questi ultimi anni. Nel marzo scorso abbiamo organizzato un seminario centrato su alcune relazioni, ma soprattutto sulla relazione e la presenza del professor Reiner dell'Università di Augsburg, sul disciplinamento sociale nella prima età moderna, tema che noi vediamo come direttamente correlato con i problemi che affrontiamo oggi. Ecco, nel senso che anche da quel seminario nacque una delle conclusioni, insomma, sulla centralità delle visite pastorali per la comprensione di questo sviluppo nodale, insomma, ecco, del disciplinamento sociale, di questa crescita, ecco, di una nuova società, appunto, non vista più negli schemi tradizionali, storiografici dello Stato assoluto, eccetera, ma come crescita di nuove strutture sociali, di controllo sociale e anche di creatività sociale. E quindi abbiamo, a conclusione di questo seminario, ricevuto un altro stimolo a intraprendere un discorso, quello sulle visite pastorali, che avevamo lasciato da parte, soprattutto per paura, insomma, ecco, per paura di un problema enormemente più grande rispetto alle nostre forze concrete, e con la convinzione, che non è del tutto scomparsa anche oggi, anzi, direi che rimane più forte, nonostante la speranza così che il nostro metterci insieme possa servire, Ecco, cioè la paura che noi ci troviamo di fronte al tema delle liste pastorali come a uno dei nodi di fronte ai quali la storiografia italiana in quanto tale è impotente. È impotente proprio perché l'affrontare questo problema esige, e questo è un po' ciò che, di cui ci troviamo di, su cui ci troviamo a riflettere, penso anche, esige una struttura organizzativa anche, e che siamo ben lontani dal poter avere. Infatti una riflessione preliminare sulla deficienza fondamentale degli studi storici in Italia di questi ultimi anni credo debba portarci proprio a questo, cioè a vedere che abbiamo avuto in settori più o meno vicini a quello che ci accendiamo a affrontare oggi, una serie di iniziative personali e di piccoli gruppi di ottimo livello. Abbiamo avuto anche, a dire la verità, finanziamenti non inesistenti, insomma, a pioggia, insomma, su ricerche connesse anche col tema che trattiamo, ma ciò che mancano sono le strutture complesse, strutture organiche che possano permettere interventi di peso rilevanti, che possono reggere interventi che sono impossibili da affrontare per le forze di singoli o di gruppi. Io credo che, appunto, non voglio allargare il discorso a grossi temi, ma l'affrontare il problema delle visite pastorali proprio per la mole quantitativa, per la serie di problemi metodologici che ci si trova davanti, porta, ecco, automaticamente a una riflessione proprio su queste carenze strutturali italiane, senza che questo debba portarci poi a rimanere fermi. Vediamo oggi se nasce qualche linea, ecco, ma quello che credo di dover dire soltanto all'inizio di questa giornata è che il mio parere è che la mancanza di organizzazione, intesa nel senso più profondo dei temi, cioè di strutture portanti, è oggi, non solo per il problema delle visite pastorali, ma anche per il problema delle visite pastorali, la causa di un abbassamento e anche di una deformazione del livello della ricerca scientifica nel settore storico in Italia. Cioè ci sono dei nodi ormai che senza un salto di altro tipo, io credo, appunto sul piano individuale, ecco, si può andare alle micro, macro, tutto quel che si vuole, ma non si riesce a sfondare, ecco, se non riusciamo, insomma, ecco, a superare questi tipi di barriere, detto con molta semplicità. E io credo che su questa base si potrebbero anche, ma non voglio appunto far perdere tempo a voi, eccetera, analizzare appunto le ragioni di fallimenti, di tentativi, anche degli ultimi 20 anni, che in realtà sarebbero stati estremamente fertili, insomma, ma che credo proprio sono falliti non tanto per ambizioni smodate dei presentatori e dei sostenitori di queste iniziative, quanto proprio per lo squilibrio esistente tra le finalità prospettate e invece questa cruda realtà dell'organizzazione storica in Italia. Il nostro problema è circoscritto, cioè, ma io credo che in gran parte stia all'interno di questa cornice a cui adesso accennavo. Il problema è sostanzialmente questo, e ritengo utile così avanzarlo brutalmente all'inizio di questa riunione, anche se appunto io sono ben convinto che poi oggi non ci si debba aspettare nessun tipo di proposte concrete, ma così ci troviamo insieme solo per un primo scambio di idee. Ma io credo che il problema, insomma, l'ultimo, la radice, scavando un po', sia quello proprio se è possibile attualmente, è possibile o no, pensare a una struttura di servizio che, superando singoli gruppi, riesca a federare un insieme di forze con le quali ci si possa proporre il superamento di questa strozzatura organizzativa di cui parlavamo prima. Se naturalmente la risposta fosse positiva, allora si dovrebbe poter passare anche a una riflessione sulle possibili aggregazioni di forze, sui problemi di vari reticoli metodologici, insomma, che possono servire come una base comune. Ma appunto questo direi è quello che io vedo sottostare in fondo a tutto il nostro discorso, a tutto il nostro lavoro di oggi, quindi lascerei questi interrogativi sotto. Io credo che oggi appunto la cosa più importante sia incominciare un primo censimento delle posizioni e delle esperienze dei presenti. Ecco, l'invito è stato fatto per questo a una cinquantina di persone, e credo che alcuni gruppi che si sono interessati direttamente a questa a questo settore sono presenti, altri non hanno risposto. Abbiamo la fortuna però anche di avere tra noi il professor Menard, mi permetto di fare quest'unica citazione, quest'unico ringraziamento, ecco, con cui che ha retto l'esperienza francese in questo settore e con cui sarà veramente, è una fortuna oggi, ecco, poter averlo presente e misurare con lui questi nostri problemi, insomma, italiani. E quindi così, lo ringrazio veramente, insomma, ecco, in modo particolare. Ecco, credo che siamo abbastanza per fare appunto un censimento e credo la relazione del dottor Tuttini credo che costituirà un ottimo stimolo per questa riflessione comune. Non la leggerai tutta, ci conteniamo nei limiti di tre quarti d'ora, un'ora, perché se la leggi tutta secondo me sono due ore, ovviamente dopo la discussione ti chiedo un po' il sacrificio. Ecco, senza entrare nel suo territorio voglio solo dire un'ultima cosa per concludere, cioè che la nostra posizione diciamo non metodologica ma così di atteggiamento, ecco, la nostra angolatura nel pensare questa riunione di oggi non è stata quella di costruire intorno alle visite pastorali De Rosa, scusa, De Rosa, per favore. Scusi, noi abbiamo aperto il ritardo. Va bene, ma d'altra parte il mio ritardo, sai che è dovuto a motivi era molto ufficiali. Non giustificato, era previsto. Ecco, per concludere il discorso, vuol dire che il nostro atteggiamento nell'organizzare questo incontro non è stato ecco, quello di costruire intorno a questa a questo problema una visione appunto di una storia settoriale, ma semplicemente di censire le varie angolature. E di qui anche una certa insistenza nel titolo stesso sul seminario studio, inventario, registro, edizione degli atti delle visite pastorali, cioè di costruire un censimento empirico delle angolature che ci sono state rispetto a questo tema. E non entro appunto in questo specificatamente perché Tuttini lo farà nella sua relazione, in una rassegna di queste angolature possibili, eccetera. Dico soltanto ecco, che dalle prime cose così in Italia dalla rassegna per esempio di Alberigo del 58 sugli atti sull'applicazione del Concilio di Trento in Italia, insomma, ecco, così qui ho portato un po' di chili di roba che possono servire, ecco, dalla rassegna, diciamo, di Alberigo su studi e problemi relativi all'applicazione del Concilio di Trento in Italia, fino alle ultimissime cose, noi cogliamo, ecco, secondo me, una possibilità di diverse angolature che sono andate da uno studio di storia della Chiesa in senso stretto di tipo tradizionale a uno studio di storia seriale, appunto teorizzato da Chauvieux e dalla scuola francese, fino agli interessi di storie specializzate come storia dell'arte. E a questo punto un altro ringraziamento per Eugenio Battisti, che porta proprio una voce diversa, e dalla storia dell'economia e al di là dei campi di studi storici, antropologia, sociologia, eccetera. Insomma, la conclusione di queste poche parole sono che ci troviamo di fronte a una fonte che non può essere monopolizzata in funzione di una particolare angolatura, insomma, di una della costruzione di una storia particolare, ecco, ma che deve poter essere utilizzabile, e forse il nostro stare insieme ha proprio questo scopo di rendere possibile questa utilizzazione da diverse angolature, con diversi metodi e per diversi scopi, insomma. Ma questo lo pongo solo così, ecco, come un altro punto interrogativo prima di dare la parola definitivamente a tutti.